Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, di nuovo con voi Sebastiano Barisoni. I temi di questa giornata economico-finanziaria: oggi è venerdì ed è chiaramente anche l'appuntamento poco invidiabile con la classifica poco invidiabile degli sprechi della pubblica amministrazione, ma parleremo oggi di alcune novità intercorse, alcune le conoscete, chi ha letto i giornali sa che poi ieri la Commissione Finanze ha modificato la bozza di parere, come si chiama in gergo, sui mutui, o meglio su un'estensione delle garanzie già previste per il recepire la direttiva europea sui nuovi mutui. Varrà infatti solo per i nuovi mutui e in caso di inadempimento dopo 18 rate, quindi non più dopo 7, la casa potrà essere messa in vendita solo con uno specifico atto di disposizione dell'immobile da parte dell'utente. Sostanzialmente viene vietato il patto commissorio, mentre anche il patto marciano, quindi quello che consente alla banca di trattenere dalla vendita della casa solo quanto dovuto e di restituire al mutuatario eventualmente l'eccedenza, quindi se ci fosse un guadagno. Inoltre, una volta che la banca dovesse mettere in vendita l'immobile, il debito verrà comunque considerato estinto anche se la vendita dovesse portare a un gettito, diciamo, a un introito inferiore al debito dovuto. La valutazione poi dell'immobile dovrà essere effettuata da un perito indipendente nominato dal tribunale. Poi altre tutele previste con l'assistenza del consumatore da parte di un esperto di sua fiducia e della Banca d'Italia, che dovrà vigilare su tutta la procedura. Di banche però oggi parleremo, non solo per questo che è sicuramente un elemento migliorativo rispetto alla prima bozza, che noi criticammo un po' per i rischi che erano contenuti, un po' perché fatta passare così in silenzio rischiava di avere un effetto boomerang tipo il decreto sulle quattro banche. Parliamo delle quattro banche perché oggi abbiamo notizie. Da un lato lo ha comunicato la stessa Banca d'Italia, che il primo marzo, quindi due giorni fa, il direttore della Banca d'Italia, tre giorni fa per la precisione, della Banca d'Italia in seduta collegiale, ha disposto sanzioni nei confronti di 27 tra esponenti ed ex esponenti della vecchia Banca Popolare dell'Etruria del Lazio, quella attualmente in liquidazione. Sono sostanzialmente state date multe che vanno dai 52.000 ai 130.000 euro a seconda del grado di responsabilità e del periodo di permanenza, per un totale di 2.200.000 euro. La Banca d'Italia in questa occasione ha fatto notare che già nel 2014 furono comminate sanzioni per 2 milioni e mezzo di euro. Tra l'altro, alcuni dei soggetti in questione, quelli diciamo di questa seconda ondata, sono stati raggiunti da sanzioni pecuniarie nel settembre del 2014. Questo per quello che riguarda le banche ormai già note, ma c'è una banca che stiamo seguendo, ahimè, con attenzione da intere settimane, anzi mesi, oserei dire un anno, visto che il primo colpo arriva nel 2014, poi 2015. Mi riferisco alla Popolare di Vicenza, perché domani vi sarà l'assemblea, un'assemblea che si annuncia infuocata, anche se il neo amministratore delegato Iorio ha chiesto ai soci di votare a favore della trasformazione in SPA, dell'aumento di capitale e della quotazione in borsa. Cioè ha chiesto tre sì alla trasformazione della banca in una SPA, sì all'aumento di capitale e sì al collocamento in borsa. Qual è il rischio? Non è nemmeno un rischio, è una certezza, perché la Banca Centrale Europea lo ha messo per iscritto, come ha ricordato lo stesso Iorio. Basterebbe un solo no per gettare la banca nel dramma di uno scenario fosco, cioè o un commissariamento o addirittura la risoluzione, che è il peggiore degli incubi possibili per il mondo bancario. Ancora di questo parleremo, perché insomma ci sono parecchi elementi domani che riguardano da un lato la pancia degli azionisti e l'arrabbiatura degli azionisti e anche correntisti in alcuni casi della Puglia di Vicenza, dall'altro però il cercare di salvare il salvabile con un titolo che più volte abbiamo spiegato ha perso il 90% del suo valore senza che la stragrande maggioranza degli azionisti della Puglia di Vicenza potessero venderlo, visto che non era quotato. Dicevo, questo è un tema che tratteremo assieme al tema, come sempre, di borsa. Oggi, per quello che riguarda il mercato, c'è una leggera debolezza soprattutto a Milano, meno 0,40%, Parigi invece guadagna l'1%, Francoforte lo 0,80%, Londra più 1%, Dow Jones più 0,50%, euro su dollaro quota 1,10. Devo dire che oggi ci sono delle flessioni proprio sulle banche, meno 4,30% il Banco Popolare, meno 3,70% la Popolare di Milano, meno 2,50% invece Unicredit, meno 2,20%, Intesa San Paolo, meno 2% Mediobanca e Ubibanca, sono tutti peggiori, sono tutti titoli bancari, Unipol meno 2%, Monte dei Paschi meno 1,90%. C'è anche però una pattuglia di titoli positivi, positiva la pattuglia, Tenaris più 3,90%, Moncler più 3,80%, CNH Industrial più 3%, Salvatore Ferragamo guadagna il 2,60%, Saipem pure, Telecom il 2,16%, Anima Holding più 1,90%, Azimut più 1,60% come Campari, l'1% è rialzo di Banca Mediolanum. Su questo va detto che nel caso di Moncler, per esempio, beh, i conti sono stati migliori delle attese, crescono gli utili e i ricavi, gli utili fanno più 30% nel 2015, l'utile netto, a 168 milioni di euro e i ricavi fanno più 27%, ha proposto un dividendo per azione di 14 centesimi di euro, quindi festeggia Moncler e in qualche modo anche il resto del settore del lusso. 349-238-6666 per sms e WhatsApp, nonché la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Restiamo come sempre in apertura sulle notizie di carattere internazionale, perché al di là, diciamo, di varie dichiarazioni, oggi c'era il ministro dell'economia Padoan, ha incontrato, come si dice in gergo, la City, non è che la incontri tutta la City, ha incontrato vari esponenti di rilievo della comunità finanziaria più importante d'Europa, la City londinese è una delle due più importanti al mondo. Ma al di là di questo, in Brasile tutta la borsa si è mossa bene e anche il Real, ma non su notizie economiche ma su notizie giudiziarie, nel senso che gli inquirenti che stanno indagando sullo scandalo di corruzione per la compagnia statale petrolifera Petrobras hanno dichiarato che ci sono elementi di prova che l'ex presidente Lula abbia ricevuto denaro proveniente dallo schema interno a Petrobras. Secondo la polizia giudiziaria brasiliana esiste il sospetto che siano stati riciclati necessariamente tutti da Lula, ma almeno 11 milioni di euro e hanno perquisito la casa dell'ex capo di Stato brasiliano. E poi il giudice brasiliano Sergio Moro, che è titolare dell'inchiesta Lava Jato, che in passato ha detto, lo dico come notizia di cronaca, ha detto di ispirarsi ad Antonio Di Pietro, al pool di Mani Pulite, ha disposto l'accompagnamento coatto, cioè forzato, per l'ex presidente Lula, che si era rifiutato di andare a deporre su un caso di presunta corruzione. Non è in stato di fermo né di arresto, deve solo deporre in maniera coatta. È stata perquisita anche la casa del figlio di Lula. L'Europa, allora, il vertice di lunedì con la Turchia sarà decisivo per far passi concreti per bloccare il flusso di profughi dalla Turchia alla Grecia e per accelerare i ricollocamenti massicci nelle prossime settimane. Lo ha detto il commissario all'immigrazione Dimitris Avramopoulos, il quale ha anche ricordato come nei prossimi giorni e settimane i 28 membri dell'Unione Europea saranno chiamati alla messa in comune obbligatoria delle risorse, quindi ognuno dovrà dare la sua quota di fondi, per le risorse per il corpo di guardie di frontiera e guardacoste europea, che dovrà essere operativo da settembre. Visto che parliamo di flussi di profughi, vi anticipo che già dal lunedì prossimo Radio 24 inizierà un viaggio, anzi un doppio viaggio, su quello che abbiamo chiamato l'Europa al bivio, al bivio anche come Europa stessa. Il bivio è il bivio greco, dove hai una Grecia che da un lato ha sempre maggiori difficoltà a reggere economicamente la manovra di austerità, dall'altro è diventata la camera, diciamo, di compensazione dei flussi migratori suo malgrado, per quello che è successo ai paesi che restano più a nord. E quindi la nostra Valentina Furlanetto e la nostra Valeria De Rosa saranno rispettivamente al confine tra Grecia e Macedonia per vedere e raccontare che cosa sta capitando a questo immenso campo profughi che continua a crescere in dimensioni, in persone e in drammaticità. Dall'altro, anche per raccontare come Atene, oltre che centro di accoglienza, chiamiamolo così, involontario di decine di migliaia di profughi, stia reggendo male, anticipo io, a questa ennesima pressione, mentre alle prese con una riforma delle pensioni pesantissime, con un paese ancora in ginocchio dal punto di vista dei consumi e dell'economia. E gli aggiornamenti chiaramente verranno forniti nel corso dei GR principali, quindi alle 7, alle 8, alle 19, poi nel corso anche di vari programmi di Radio 24. Andiamo avanti e andiamo in Italia. Allora, oggi l'Istat ha, da un lato, chiarito quanto è cresciuta l'economia italiana nel 2015 al netto, a parità di giorni lavorativi. Ci sono stati infatti 3 giorni lavorativi in più l'anno scorso. Oh, sembrano poche, però in realtà fanno sballare il dato, nel senso che lì scopriamo che l'anno scorso siamo cresciuti dello 0,6%, non dello 0,8%. Perché non è così, diciamo, fondamentale da un punto di vista politico la notizia? Perché per l'Europa, e quindi per i parametri di finanza pubblica, il dato che conta è quello diffuso la settimana scorsa, più 0,8%. E quindi, insomma, l'unica cosa che ha un rilievo statistico per il deficit, per il rapporto debito-PIL e per i rapporti con l'Europa è lo 0,8%, ma a parità di giornate siamo cresciuti solo dello 0,6%. Bene invece i consumi privati, che a fine 2015 hanno messo a segno il rialzo più forte da 5 anni. L'ultimo trimestre ha avuto un rialzo dell'1,3% nei consumi privati rispetto all'ultimo trimestre del 2014, è il rialzo più forte dal 2010. Gli investimenti sono cresciuti, più 1,6% sempre nell'ultimo trimestre, è il dato più forte dal secondo trimestre 2007. Veniamo al presente. La crescita acquisita nel 2016, quindi se tutti i trimestri dell'anno in corso facessero zero, noi faremmo comunque più 0,2, perché questo è l'effetto di come siamo entrati nel 2016. È chiaro che nessuno si augura che i trimestri vadano tutti a zero. L'ingresso però nell'anno è stato dello 0,1% come quarto trimestre e dell'1% su base annua rispetto quindi al trimestre precedente. Però parla di, secondo me la definizione è abbastanza azzeccata, ripresa senza slancio, che è un po' come dire un amore senza passione, cioè, è quasi un ossimoro, però in realtà è così, è una ripresa debole che non ha uno slancio, che non si fa notare, non, perché è timida sta ripresa, non si fa notare dalla maggior parte degli italiani, non hai dei grandi cambiamenti nelle vendite, nei fatturati, cioè chi andava bene continua ad andare bene e chi soffre. Complessivamente c'è appunto una ripresa senza slancio che emerge anche dall'indicatore dei consumi di Confcommercio. A marzo vi sarà un calo tendenziale dei prezzi secondo Confcommercio dello 0,4, quindi saremo al secondo mese, se avesse ragione Confcommercio, di deflazione, soprattutto i consumi si sono fermati a gennaio rispetto a dicembre, ma hanno ancora una crescita dell'1,4% rispetto a gennaio del 2015. Allora, chi ci sta chiedendo cosa capita se non dovesse, cosa capiterebbe se non dovesse passare la trasformazione in SPA dal Popolare di Vicenza, né l'aumento di capitale nella quotazione in borsa, sarebbero dolori. La BCE l'ha detto in maniera molto chiara, la Banca Centrale Europea. Però abbiate un po' di pazienza, vi arriviamo nella seconda ora del programma, quando affronteremo proprio l'appuntamento di domani a Vicenza. È vero, hanno ragione i dipendenti della Popolare di Vicenza, che dicono: guardi, non ci sono solo i soci, gli azionisti, i clienti, ci sono anche i dipendenti. È vero, è verissimo, e nessuno pensa che siano situazioni di serie B. Il problema è che, ragazzi, cioè, la fregatura vera l'hanno tirata in primo luogo agli azionisti e anche ai correntisti, perché molti di questi erano azionisti, diventati azionisti perché avevano chiesto un mutuo, gli veniva proposto: se vuoi prendere un mutuo, comprati anche le azioni. Che la crescita non sia, l'ho definito amore senza passione, vabbè, lo pensa anche il ministro Padoan, che oggi appunto alla City ha detto: l'Italia ha ripreso a crescere dopo anni di recessione, ma per il governo non è ancora tempo di festeggiare. E il dato migliore che Padoan ha descritto ai finanziari della City è stato quello sui posti di lavoro. La creazione di nuovi posti di lavoro è uno degli aspetti a cui il ministro infatti ha attribuito maggiore importanza fra i segnali che hanno accompagnato l'Italia statisticamente fuori dalla recessione. Allora, le opere pubbliche e la pubblica amministrazione, visto che dobbiamo parlare adesso di... anzi, parliamo prima dell'IVA, perché questa mattina a Bari, ed è ancora in corso nel pomeriggio, si è tenuto uno degli appuntamenti dell'iniziativa che è originata da Sole 24 Ore con Ernst Young, che si chiamano gli Stati Generali dell'Innovazione, cioè il tentativo di andare nei punti economicamente rilevanti di questo paese. È iniziata a Bologna e poi si è trasferita a Bari, vi saranno altre tappe, e creare non tanto un convegno ma un momento molto concreto per ragionare sull'innovazione, che è trasversale a qualunque settore, che vuol dire innovazione infrastrutturale piuttosto che innovazione di prodotto, vuol dire digitalizzazione delle imprese piuttosto che innovazione della pubblica amministrazione. Oggi erano presenti sia il ministro Delrio che il ministro Madia. Vorrei partire dal ministro Delrio, perché nel viaggio dell'Italia che innova, appunto organizzato da Sole 24 Ore e Confindustria, abbiamo parlato con Delrio anche della lista delle opere pubbliche da completare, ma visto che si era a Bari, anche dell'ILVA. Ha detto Delrio: sarei felice che l'ILVA restasse italiana, ma valuteremo le offerte. Io credo che in qualsiasi altro paese non ci si dovrebbe vergognare di dire che si mira a tenere ILVA italiana. I francesi o i tedeschi direbbero che terrebbero la loro principale fabbrica siderurgica italiana. Questa è anche una mia aspirazione, ma si vedranno le offerte, è giusto valutare le offerte migliori, quelle che garantiscono più sviluppo e più ripresa da parte dell'occupazione per l'ILVA. Detto questo, se rimanesse italiana, io personalmente ne sarei felice. E devo dire che un concetto analogo è stato utilizzato anche da Fabio Gallia, che è l'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, sempre a Bari, sempre durante il viaggio nell'Italia che innova, organizzato dal Sole 24 Ore, e sempre sul tema dell'IVA, perché la Cassa Depositi e Prestiti ha partecipato, ha presentato una sua offerta per essere azionista non di maggioranza ma di minoranza nell'ILVA. E Galli ha detto: insomma, il tema dell'IVA riguarda la competitività del paese e il ruolo della siderurgia è cruciale in Puglia e in tutta Italia. Io ricordo che, al di là delle responsabilità della famiglia Riva, l'ILVA restava, perché poi è successo di tutto, abbiamo fatto un pasticcio lì dentro di dimensioni stratosferiche, però restava il primo polo siderurgico europeo, valore doppio rispetto come produzione rispetto alla Thyssen, cioè, ed era uno dei motivi per cui l'Italia è il secondo paese come produzione di acciaio in Europa dopo la Germania, per cui non stiamo parlando di un'azienda decotta o che non sta sul mercato, stiamo parlando di un'azienda che per colpa dei vertici, secondo quanto ricostruisce la magistratura, gli ex vertici, quindi la famiglia Riva, non ha ottemperato quanto aveva promesso, non ha messo in sicurezza l'azienda, non ha investito in quello che erano le missioni dell'azienda. Però detto questo, ricordiamoci che stiamo parlando di un'azienda assolutamente in grado di stare in piedi da sola e anche con importanti quote di mercato. Detto ciò, restando sulle infrastrutture, Del Rio ha chiarito che entro l'estate arriverà la lista delle opere pubbliche da completare. Il tema della progettazione è un tema centrale per le infrastrutture. Ci dobbiamo concentrare a costruire buoni progetti di sviluppo e non c'è un problema di finanziamento, perché ci sono capitali anche privati disponibili a investire su grandi infrastrutture ben progettate. Quindi le incompiute devono essere selezionate adesso. Alcune incompiute sono perché sono stati fatti progetti sbagliati. Costruire una caserma o una stazione su un terreno franoso è chiaro che non la devi completare, la devi abbandonare. Altri incompiuti invece vanno completate perché sono il frutto di vari ricorsi, di vari stop di vario tipo, e quindi ci stiamo concentrando a selezionarle e penso che entro l'estate daremo una lista completa delle opere che completeremo e in quanto tempo. E poi è intervenuto anche il ministro Madia sulla necessità di innovare anche nella pubblica amministrazione. Questo ci porta, diciamo, direttamente poi alla classifica della settimana. Allora, il ministro ha detto che martedì prossimo vi sarà la presentazione alla stampa per la partenza del PIN unico, cioè diventerà per ogni cittadino come il codice fiscale. Su questa misura, che diventa una misura importante se poi veramente implementata in tutto il paese, si concentrano i 100 secondi di Italia 24, Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Sappiamo che una parte decisiva del percorso di rinnovamento dello Stato passa dai processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione. È un ambito nel quale c'è molto da fare, a partire, se vogliamo, dalla cosa più banale, cioè fornire a tutti i cittadini, a tutte le aziende, a tutti gli operatori una chiave unica per l'accesso a ogni servizio della pubblica amministrazione, un unico PIN, una sola password per comunicare con gli uffici, per chiedere informazioni, per adempiere i propri obblighi. Naturalmente si tratta di una promessa della quale si parla da moltissimo tempo e sulla quale finora nulla è stato fatto. Una promessa che ora viene rilanciata con la riforma della pubblica amministrazione, che è in fase di attuazione. Proprio oggi il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Marianna Madia, che era a Bari all'evento organizzato dal Sole 24 Ore, Viaggio nell'Italia che innova, ha annunciato che questo PIN unico è pronto e verrà ufficialmente presentato nei prossimi giorni, già martedì prossimo. Questo è un passo necessario, perché se tutto funzionerà come dovrebbe, grazie a questo codice fiscale elettronico, ogni cittadino, ogni azienda potranno accedere a circa 300 servizi digitali forniti dai comuni, dalle regioni, dal fisco, dall'INPS, insomma da tutte le amministrazioni. Staremo a vedere se questa volta la promessa per un'amministrazione più efficiente diventerà realtà, oppure se ancora una volta prevarranno i ritardi o addirittura i rinvii. Sarebbe un vero peccato. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora andiamo sul meteo, la borsa ha chiuso meno 0,37% e poi la poco invidiabile classifica di Focus Economia. Focus Economia. La classifica della settimana. Allora, la classifica di oggi inizia stranamente con una buona notizia. Allora, c'è qualcuno che dice ma basta con questa classifica. No, in realtà la classifica piace, mi dispiace per lei. Non è deprimente in questo caso, o meglio, è spesso deprimente. Però una buona notizia, che non dovrebbe entrare nella classifica, ma visto che sono rare, riguarda la regione Piemonte. Perché nelle buste paga di febbraio in regione Piemonte il taglio degli stipendi dei consiglieri regionali è scattato, 1000 euro in meno rispetto a gennaio. Per alcuni però la sforbiciata non è ancora finita, nel senso che gli assessori regionali non tutti hanno avuto il taglio di 1150 euro sui rimborsi spese, perché la regione ha stabilito che se si utilizza l'autista, l'uso stabile dell'autista, ti viene elevato questo rimborso spese. Obiettivamente o hai l'autista o hai rimborso spese. La comunicazione dei 14 assessori di avvalersi dell'uso esclusivo dell'autista è infatti arrivata troppo tardi per entrare in vigore già questo mese. Comunque, con la busta paga di marzo sarà calcolato il conguaglio dei due mesi e quindi vi saranno altre 1150 euro in meno. Quella di la busta paga di Pasqua sarà quindi una busta paga piccola, sottile, per i componenti della squadra del presidente regionale Chiamparino. Pensate che con questo porterà all'assurdo che gli assessori di Chiamparino e anche lui stesso guadagneranno meno dei consiglieri regionali, cioè di chi deve votare nel parlamentino regionale. Ora, obiettivamente è una cosa che fa ridere, nel senso che uno può criticare quanto vuole un assessore e un presidente di regione, ma è abbastanza palese che abbia più responsabilità, più incarichi e più anche oneri di un normale consigliere regionale che va lì e sostanzialmente vota. È addirittura un paradosso. Perché lo dico questo? Perché sostanzialmente il presidente della regione Piemonte, Chiamparino, che devo dire da questo punto di vista è inattaccabile, va in ufficio con la bici e usa l'auto di servizio solo per gli altri spostamenti fuori città, guadagna 10.200 euro lordi, 2.000 euro in meno rispetto a gennaio per via di questo doppio taglio, e con il taglio autista arriverà a guadagnare 9.000 euro lordi. Praticamente guadagnerà meno lui, che comunque fa il presidente di regione, ha un ruolo anche esecutivo, di un qualunque capogruppo in consiglio regionale che non si avvalga dell'autista, ne prende 9.500 netti. E dovrebbero essere 6.400 quelli netti di Chiamparino, meno di un consigliere semplice. Il minimo che tu puoi prendere in regione Piemonte è 6.500 euro netti come consigliere regionale. A questo punto, comunque, questo va dato plauso alla regione Piemonte, ecco perché l'abbiamo messa in questo appuntamento. La manovra di spending review, di riduzione della spesa sui costi della politica, sarà ultimata appunto con quest'ultima norma, e il risparmio previsto sarà di 1.200.000 euro l'anno, più altri 200.000 euro di risparmio sulle spese di funzionamento. Praticamente 1.400.000 euro l'anno in meno di spese solo in Piemonte per quello che riguarda i costi dei consiglieri e dei consiglieri regionali. E poi dalla prossima legislatura, sempre in Piemonte, riduzione degli staff degli assessori pari a quasi 800.000 euro l'anno. Andiamo al... Oggi sembrava quasi fatta apposta, ma era c'era anche un'altra notizia virtuosa, e mi riferisco alla tolleranza zero a Pietra Ligure, dove il sindaco Antifurbetti ha deciso che si devono registrare anche le uscite per la pausa caffè. Il sindaco si chiama Dario Valeriani, la normativa l'ha voluta chiamare Antifurbetti del cartellino. Praticamente è previsto tutto: le pause caffè, la rilevazione delle presenze assenze, i ritardi, le uscite anticipate, sanzioni, controlli, la banca delle ore per recuperare gli straordinari, non si può uscire durante l'ora di lavoro salvo per esigenze personali per un tempo non superiore a 15 minuti giornalieri, qualsiasi ingresso in servizio oltre l'inizio dell'orario di lavoro costituisce ritardo e comporta una sanzione disciplinare. Occorre registrare l'uscita e l'entrata anche nella pausa pranzo. La mancata registrazione per quando si esce a pranzo e si rientra comporta la decurtazione di 60 minuti dalle prestazioni. Le ore d'assenza comunque non possono superare le 36 ore annue, E poi ogni dirigente di area è responsabile del controllo dell'orario di lavoro del personale a lui assegnato. Tutto è informatizzato e in caso di blocco del sistema informatizzato si passa al registro cartaceo. Beh, siccome spesso voi dite ma non cambia mai niente, a mio avviso invece che cambiano le cose in questo paese ce ne vuole. Però a forza di pressioni, che mica le facciamo solo noi, di racconti, di articoli del giornale, di inchieste televisive, insomma un po' più di attenzione c'è. Cioè, se voglio dire il sindaco in Liguria, che voglio ricitare, Pietra Ligure, si chiama Dario Valeriani, ma insomma ci fosse stata anche una gestione così a Sanremo non avremmo visto gli slip, ecco. Vabbè, adesso noi invece andiamo dalla parte negativa della classifica, perché partiamo da Napoli. Già ieri un bellissimo servizio di Piazza Pulita dimostrava così come mai a Roma, per esempio, la raccolta differenziata ottenga così poco successo. Beh, sono inutile accusare sempre il sindaco, sono gli stessi romani molte volte che se ne fregano e buttano tutto nella differenziata. Non si capisce perché i tassi di differenziata nel paese varino a questi livelli. Non è un problema economico, è un problema di educazione civica, di rispetto dell'altro e non di menefreghismo. No, perché vai a vedere i tassi di differenziata al nord sono doppi rispetto al centro e al sud. Ragionamento analogo si può fare anche per questa notizia che riguarda Napoli, nel senso che il sud giustamente ha tante debolezze e fa bene a chiedere anche aiuti, investimenti laddove produttivi, però delle volte insomma, è causa del suo male, nel senso che se tu non adotti mai un'amministrazione rigorosa, un senso civico, poi non puoi sperare che ti venga imposto dagli altri. Lo dico perché un cittadino che abita a Milano o nel nord Italia, o meglio i comuni del nord Italia, hanno un tasso di riscossione delle multe che viaggia tra l'87 e il 90%. E chi vi parla e anche chi mi seguirà in conduzione ne sa qualcosa. Sapete qual è il tasso di riscossione a Napoli? Il 4%. Cioè, se tu prendi una multa, hai 96 possibilità su 100 di non pagarla. A Milano, che io sappia, è impossibile, nel senso che quelle che non vengono riscosse vanno in Equitalia e auguri. Ok, allora, la cosa che mi fa impazzire è che questa percentuale, ossia che su 77 milioni di multe elevate l'ente preposto a Napoli per riscuotere ne ha riscosse appena 17,6 milioni, la percentuale di riscossione è del 4%, ogni 100 contravvenzioni 4 il comune riesce a vederle. Dicevo, la cosa che mi fa impazzire è che questo era il dato già presente durante la giunta Iervolino, Rosa Russo Iervolino. Chi non ha più di 35 anni col cavolo che se la ricorda, ma è rimasta invariata con tutti i vari sindaci, De Magistris incluso. Praticamente sommando tutti i residui attivi, i crediti non riscossi, il peggioramento del disavanzo comunale di Napoli è di 366 milioni. Lo rileva la stessa Corte dei Conti, dice: si rileva un costante ricorso all'assunzione di tali passività con conseguente aggravio del bilancio e utilizzo di risorse non preventivate. Cosa vuol dire? Vuol dire che invece che cercare di riscuotere queste multe, si prende atto, vanno nelle passività, devi usare altre risorse straordinarie e avanti così, piuttosto che fare in modo che anche a Napoli si arrivi a un tasso di riscossione delle multe decente, non dico buono, ma decente. Una su due, il 50%? Allala, allala. Adesso arriviamo anche al primo posto, però al secondo posto mettiamo la Puglia, che oggi abbiamo elogiato nel raccontare anche il dinamismo dell'imprenditoria pugliese. C'è la Puglia e poi la Sicilia. Facciamo così, c'è il traffico prima, dai. Focus Economia. Allora, no, la situazione paradossale che si sta verificando in Puglia, perché? Perché il neo governatore emiliano ha deciso di razionalizzare la struttura ospedaliere. Anche qui vale la pena ricordare, al di là di tanta retorica, l'ospedale mi chiudi l'ospedale sotto casa, che ha un senso razionalizzare gli ospedali, cioè ormai lo sanno tutti quelli che si informano di queste cose. Funzionano i grandi centri di eccellenza dove hai molti casi, è inutile avere una chirurgia nel piccolo centro dove il chirurgo magari quell'intervento ne ha fatti tre nella sua vita, molto meglio avere degli ospedali di prima emergenza e di primo soccorso e poi che i malati vengano dirottati nei grandi policlinici. Funziona così anche nei paesi più all'avanguardia di noi su questo, per cui non c'è niente di male, lo dico al di là della retorica, voglio l'ospedale sotto casa, il negozio sotto casa, la farmacia sotto casa, la banca sotto casa e tutto così. Però c'è qualcosa che non sta girando in Puglia sul piano di Emiliano, perché praticamente vengono chiusi ospedali appena ristrutturati, cioè hanno buttato via 10 milioni di euro. 10 milioni di euro. Allora, Emiliano prevede lo spegnimento di 9 strutture in tutta la Puglia. Ci sono addirittura casi a Canosa. Il primo cittadino, Ernesto La Salvia, è anche primario del pronto soccorso. Qualche giorno fa ha annunciato l'inaugurazione di nuovi reparti nell'ospedale Morente. Cioè, adesso che un ospedale sia Morente fa veramente impressione. Però io dico, ma un problema di dissociazione uno ce l'ha. Come fai a inaugurare nuovi reparti se sai che la regione decide di chiudere quell'ospedale? Eppure, medicina, geriatria e pronto soccorso. Ma aggiunge il direttore generale della ASL BAT, Ottavio Narracci, non è uno spreco, questa è bellissima, perché quei reparti con 32 posti letto potranno, e sono stati messi a norma, e quindi potranno sempre servire in futuro. Quando? Cioè, cosa fa? A un primo momento riapri l'ospedale Canosa? Boh. Comunque, alla fine hanno saltato l'inaugurazione. Quei lavori, però, commenta amaro il sindaco La Salvia, sono stati appaltati nel 2006-2007, terminati un mese fa, e sono costati centinaia di migliaia di euro. Poi un po' più a nord c'è l'ospedale di Lucera, a rischio chiusura. Nel 2012 hanno ristrutturato 2 interi reparti, 2012, con una spesa di qualche milione. La situazione non cambia al Fallacara di Triggiano. Oltre alla ristrutturazione dell'ospedale, 2 milioni di euro, sono stati spesi anche molti soldi per realizzare la bretella stradale necessaria a collegare meglio la struttura con gli altri paesi della provincia. Mamma mia, inaugurata qualche mese fa e costa 4 milioni, non si capisce cosa collegherà adesso. Ma andiamo al caso più singolare, l'ospedale di Trani, che è pure a rischio chiusura. Dovevano essere conclusi da un anno i lavori al pronto soccorso. 1,5 milioni di costo, più altri 850 mila euro spesi 2 anni fa per rimettere in sesto le sale operatorie. L'ospedale è ancora un cantiere. Quindi i tranesi rischiano di vivere una situazione, diciamo, kafkiana, di passare da un ospedale che è inagibile perché è un cantiere all'aperto a un ospedale che è inagibile perché è chiuso. Io penso che sia il caso mondiale di vita più breve di un edificio inaugurato, cioè finisce il cantiere, tagli il nastro, lo chiudi, tutto senza soluzione di continuità. Nuovo record dalla Guinness. Da Guinness. Allora, adesso devo raccontare al primo posto, mi ha messo una storia dolorosa perché riguarda un'associazione di vittime della mafia, però proprio quando gestisci i soldi dell'antimafia devi essere al di sopra di ogni possibile dubbio. Andiamo col vincitore. And the winner is... E il vincitore è la Calabria, ho sbagliato io, mi fanno notare in regia, ci mancherebbe, non c'entra nulla Sicilia, un lapsus freudiano, no, per carità, che la Sicilia già troppe volte è venuta in classifica, la Calabria. Che cosa è successo? Allora, in Calabria, va detto che è il Corriere della Calabria dalla notizia, perché ha avuto accesso e contabilità ai bilanci del Coordinamento Nazionale Riferimenti. Che cos'è? È un'associazione antimafia, nata con un pregevole obiettivo, ovviamente, nata anche, diciamo, con l'obiettivo di sensibilizzare tutta la Calabria, il più possibile chiaramente, al tema dell'antimafia. Però quello che viene fuori, adesso io non so quanti minuti ho, ma è una cosa allucinante. Perché lo dico? Perché guardando il rendiconto depositati dall'associazione appunto dal 2011 al 2014, ci sono, non si insomma, hanno ricevuto tanti soldi ma non si capisce come li hanno spesi. Allora, nel 2011 ricevono 270 mila euro tra enti pubblici, associazioni, privati, cittadini. Altri 18.000 euro arrivano dalla provincia di Reggio Calabria grazie a vendita di materiale raccolto a fondi. Andamento analogo anche nel 2012, 126.000 euro a riferimenti più altri 3.000 da vendita raccolta a fondi. In totale in due anni ricevono 400.000 euro che vengono dati a chi si promette di, ripromette di costruire una cultura antimafia in Calabria. Allora, non c'è neanche un singolo versamento da una tessera soci, che per essere un'associazione è strano. Ma mi chiedo, a cosa è servito organizzare, anche perché spendere 60.000 euro per calendari o libri vittime di mafia, nome comune di persona, che è un ricordo dell'ingegnere Gennaro Musella, ucciso dalla mafia, della figlia Adriana, che è presidente di riferimenti. Poi vengono organizzate anche, vengono spesi 3.000 euro, dicevo, per i calendari. Il budget messo a disposizione è finito in fiori e magliette, omaggi floreali a Dobby in tre anni ha speso 11.000 euro, magliette da distribuire nelle giornate della Gerbera Gialla sono 23.000 euro, 4.900 euro in targhe, 7.200 euro in pranzi e cene, insomma, i progetti con le scuole, non si capisce quali siano. Ci sono invece dei progetti che chiedo che cosa possono servire. Qualche incontro nelle scuole, ma soprattutto, dov'era quella che mi aveva fatto la manifestazione magicamente musical, la manifestazione Gerbera Gialla organizzata da Magicamente Musica di Napoli, 4.500 euro per organizzarla, e poi 1.000 euro per le hostess, per il servizio audio, per il servizio fotoriprese, spese ristoranti, viaggi, con la caratteristica che Magicamente Musical, finanziata dall'associazione Riferimenti per mettere insieme uno spettacolo, viene premiata dalla stessa Riferimenti con il premio per l'impegno civile. Tutto sostanzialmente resta in famiglia. Ci sono anche, chiedo ancora un attimo di pazienza, ritenuto d'acconto per 3.000 euro di taxi, 1.800 euro spesi all'Apple Store di Roma Est. Che cosa c'entra con la cultura dell'antimafia i 2.000 euro spesi all'IKEA di Milano, o i 150 euro messi a bolletta a Zara Home a Roma? Ma finiamo, e ho veramente concluso con il massimo, e qui voglio l'applauso: sono riusciti a organizzare con i soldi pubblici anche la settimana bianca dell'antimafia a Folgaria. La settimana bianca dell'antimafia non l'avevo mai sentita. Va a GR24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. L'Europa al bivio greco, con Radio 24, nel cuore della crisi. Dal 7 al 12 marzo, Radio 24 vi accompagna in un viaggio nel paese che più di tutti racconta la profonda crisi dell'Europa contemporanea. Immigrazione e scontro con Bruxelles, crisi economica e occupazionale, crisi di identità di un paese che si riflette sull'intero continente. Dai Domeni, dove migliaia di migranti premono alle porte della Fortezza Europa, fino ad Atene, dove il governo cerca i mezzi per sostenere un'economia in ginocchio. Radio 24, con i suoi inviati, i suoi conduttori e gli esperti in studio, percorre le strade della Grecia per cercare di comprendere il cammino dell'Europa. Focus Economia. Minuti. Allora, ha un ascoltatore che mi dice: ma non avete anche notizie positive? Certo, quando facciamo la classifica si dice Gerbera, non Gerbera. Vabbè, ho sbagliato il fiore, però tutto il resto purtroppo era vero. Avrei voluto sbagliare il resto e dire il fiore giusto. Era vera anche la settimana bianca dell'antimafia, ma non vi potevo aggiungere, oltre ai soldi spesi dall'associazione per creare una cultura dell'antimafia, Riferimenti. Avrei potuto aggiungere altri costi che vi avrebbero fatto ancora più arrabbiare, perché c'era anche un'auto e il parcheggio di quest'auto, 500 euro al Reggio Parking. Vabbè, comunque, andiamo sulla parte positiva. E ogni settimana, dopo la classifica, invitiamo un imprenditore che ha lanciato un'impresa in questi anni di crisi, che quindi si è rimboccato le maniche, che non si è depresso, che non si è pianto addosso. Alessandro Florio, amministratore delegato e cofondatore di Hydrowash, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori di Radio 24. Ma Hydrowash è quella che... Forse l'ho già sentito. Comunque, quando nasce Hydrowash e dove? Hydrowash nasce nel 2013, noi siamo di Verona e operiamo nel settore dell'edilizia, un settore un po' disgraziato per varie vicissitudini in questi anni. Quanti anni ha lei? Io ne ho 31. E ci siamo rimboccati le maniche, come diceva lei, abbiamo visto un settore in crisi e l'idea è venuta cercando di trovare una soluzione a tutti quegli immobili che rimangono vuoti o inutilizzati e cercare di riportarli sul mercato. La nostra attività principale è quella della riqualificazione di questi immobili, prevalentemente industriali e commerciali, per esigenze anche estetiche. Per i clienti di questi mobili che vengono a visitare, ad esempio, un supermercato, un centro commerciale, certo. E invece di trovarsi gli ambienti esterni, le pavimentazioni, le facciate, che è l'oggetto dei nostri interventi, sporche, rovinate dalle intemperie, interveniamo noi per risolvere questi problemi. Ma è vero che tutto nasce da un'esigenza che lei ha avuto, cioè lei era cliente, ha capito quanto le avevano chiesto per pulire un rustico, se ho ben capito, ed è lì nata l'idea con suo fratello? Sì, con mio fratello ci siamo trovati nell'esigenza di ristrutturare una casa che abbiamo ereditato dal nonno paterno, una casa in muratura antica, e qui la necessità di intervenire per recuperare le strutture che erano ancora buone, quando invece ci avevano consigliato di abbatterle perché sarebbe costato di meno fare il lavoro. Da qui la ricerca di una soluzione che abbiamo importato dagli Stati Uniti e poi un nostro intervento di miglioria alla soluzione che ci ha permesso di adattarla ai nostri utilizzi e di andare a ridurre quello che è l'utilizzo dei prodotti chimici che normalmente vengono utilizzati in processi, diciamo, di tipo tradizionale. Ma voi non eravate del settore, cioè cosa facevate prima? Io ero un commerciale, mentre mio fratello si è occupato di lato tecnico nel settore della telefonia. Noi nasciamo come due programmatori informatici, quindi ci siamo occupati di tutt'altro in precedenza. E come, quanto ci avete messo a sviluppare questo progetto e soprattutto quanto vi è costato e chi vi ha dato i soldi? Allora, il progetto inizialmente l'abbiamo finanziato noi personalmente con dei risparmi, circa 100.000 euro, e poi ne sono stati investiti strada facendo altrettanti, sempre di risparmio diciamo privato, di fondi di famiglia. Quindi, ma le banche non vi hanno dato nulla? Ma noi, avendo le risorse interne, non avete neanche chiesti. Approcciati insomma alle banche, non avevamo questa necessità. E il progetto ha avuto un periodo di incubazione di circa un anno e mezzo, siamo stati aiutati anche da Confindustria Verona tramite un bando rivolto ad imprese nuove per metterle in contatto con il tessuto imprenditoriale della nostra provincia, e questo ci ha dato supporto dal punto di vista imprenditoriale da un lato, e dall'altra parte alcuni imprenditori sono poi diventati i nostri primi clienti e ci hanno dato una mano, insomma. Bene. Senta, quante persone lavorano con voi, quanto fatturate e che prospettive avete? Noi siamo partiti in due, oggi siamo in quattro, gli ultimi 12 mesi abbiamo fatturato circa 100.000 euro e pensiamo di crescere di un circa 20% nel prossimo anno. 20%, sì, so che non posso fare pubblicità in diretta, era un altro wash quello con cui la confondevo io, mi stanno rompendo le scatole gli ascoltatori, quello che girava, è un'altra cosa, questo è un jet, un pulitore ad alta pressione che permette, se ho ben capito, di pulire grandi superfici senza l'utilizzo di detergenti, utile anche per certe amministrazioni comunali e regionali di questo paese. Allora, no, era un altro senso. Senta, mi diceva 20% quest'anno o l'anno prossimo? Non ho capito, mi scusi. Quest'anno, nel 2016. Ma attiverete altre collaborazioni? Noi abbiamo avviato una selezione di collaborazioni con altre imprese di servizi legate al mondo dell'edilizia, ne abbiamo già selezionate tre e stanno muovendo i primi passi. Prevediamo nell'anno in corso di aggiungere circa una al mese, una decina all'incirca. Il nostro obiettivo è quello di creare valore e anche posti di lavoro. E avete provato a venderlo anche all'estero? È l'ultima domanda che ho per lei. All'estero abbiamo avuto diverse richieste, principalmente dai paesi europei e dai paesi medio orientali, come ad esempio Dubai, dove hanno un mercato edile molto molto importante, e sono state fatte delle valutazioni, degli incontri anche con degli imprenditori di questi paesi. Stiamo valutando, insomma, nei prossimi mesi forse riusciremo ad avviare le prime collaborazioni anche con l'estero. Allora, come sempre, ai nostri ospiti che rappresentano appunto come caso simbolico chi appunto si è messo in gioco in questi anni, in bocca al lupo a lei, a suo fratello e ai dipendenti o collaboratori, visto che sono ancora scusatemi, collaboratori. Grazie a Alessandro Florio, amministratore e cofondatore di Hydrowash. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. E forza Hellas, no? Anche Chievo, perché no, dopo si arrabbiano qui. No, non ci siamo. Florio, bocca al lupo sull'attività, va. Allora, no, sto scherzando. Andiamo avanti con i temi. Vedo che il WTI, il petrolio, sta facendo a New York più 4%, ed è a $36 al barile, che è un livello ancora basso, ma sicuramente uno dei livelli più alti degli ultimi mesi. Dopo il traffico parleremo di mercato non petrolifero, ma di mercato borsistico. Meno 0,38% Milano, più 0,90% Parigi, più 0,70% Francoforte, più 1,1% Londra. Dow Jones più 0,37, euro quota 1,10, miglior titolo Tenaris più 4% e poi Saipem più 3%. Bene anche il lusso, male oggi le popolari. Traffico. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Focus Economia. Allora, pagina finale di banche, sia banche in borsa che domani la Popolare di Vicenza al test, alla prova più difficile della sua storia, come banca e anche come storia del territorio vicentino. Iniziamo dalla cronaca della borsa. Malissimo oggi la Cassa di Risparmio di Genova, e non c'era da dubitarne, ahimè, perché ha perso il 9,6%. Beh, insomma, la Banca Centrale Europea ha chiesto una nuova svalutazione e un nuovo piano industriale entro maggio. E qui già entriamo nel secondo tema: che cosa potrebbe capitare alla Popolare di Vicenza, anzi, probabilmente capiterebbe alla Popolare di Vicenza se non venisse fatto passare, come ha chiesto un nuovo amministratore delegato, sia la trasformazione in SPA che la quotazione in borsa che l'aumento di capitale. Non è una bella prospettiva. Comunque, Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Le popolari. Popolari sono tornate sotto pressione, è vero che vengono da una buona settimana con tutte con rialzi in doppia cifra, ma Banco Popolare e Popolare di Milano sono state non a caso le peggiori, perdendo rispettivamente il 4,2 e il 3,3%. Perché? Perché le continue indiscrezioni sull'esame che la BCE sta facendo sul progetto integrazione ormai noto tra le due banche e che doveva essere imminente, alimentano i dubbi sulla reale riuscita di questo progetto, quindi se si arriverà veramente a una integrazione o se bisognerà procedere a un dietrofront. I temi sono quelli soliti: il trattamento dei crediti deteriorati, le prospettive eventuali di un aumento di capitale che però i vertici hanno smentito, e questi due fattori hanno penalizzato dei titoli già ben orientati questa settimana, contagiando in parte anche agli altri bancari, tant'è che Unicredit e Intesa hanno perso oltre 2%. Ma come tu accennavi, Parigi è stato l'altro fattore penalizzante per le banche. Comunque, meno 4,20 Banco Popolare, meno 3,30 Pop Milano, meno 2,20 Unicredit, meno 2 Intesa San Paolo, l'1,90 lo perde Mediobanca e UbiBanca, l'1,50 il calo di Unipol. Devo dire che fuori dai bancari perde l'1,5 anche Steam Microelectronics e Yux Net-a-Porter, Unipol sai meno 1%. Poi c'è chi ha guadagnato oggi: Tenaris più 4%, immagino che sia il petrolio. Immagino però, e anche Saipem più 3%, mentre su Moncler ci sono i conti, insomma i conti sono stati migliori delle attese. L'inverno sarà stato anche l'inverno più caldo degli ultimi, da quando era 80 anni, dal 1800 non mi ricordo più, ma Moncler evidentemente non se n'è accorta, perché ha fatto più 29% l'utile netto nel 2015, 168 milioni di euro, e più 27% i ricavi, 880 milioni di euro, 0,14 euro per azione. Invece Telecom si è mossa anch'essa bene, più 2,26%. Oggi Gallia, nel convegno a cui facevo riferimento, ha organizzato anche da Sole 24 Ore, il numero uno di Cassa Depositi e Prestiti, ha detto: siamo pronti a investire ancora su Metroweb. Comunque, Andrea, Telecom. Sì, beh, Telecom è arrivato, diciamo, ha aperto la seduta con l'indicazione che dall'Argentina, dall'autorità argentina, è arrivato l'atteso via libera per l'operazione di vendita della maggioranza di Telecom Argentina alla finanziaria Fintech, un'operazione attesa che sblocca un incasso importante fino al miliardo di dollari per Telecom, atteso da oltre un anno. Ma ci sono poi anche le speculazioni, non solo sull'operazione Metroweb, che torna prepotentemente sul tavolo, ma anche sulle strategie con Vivendi che sono state discusse negli ultimi giorni da Marco Patuano, amministratore delegato di Telecom, certo, e dai vertici di Vivendi. Sì, vedo messaggi, ci confermo, i numeri che abbiamo letto su Moncler, i complimenti vanno fatti a Remo Ruffini e alla sua campagna di marketing, magari lo invitiamo la prossima settimana, perché quello è un caso abbastanza di storia, sia la quotazione ma anche il modo in cui ha aggredito i mercati, non mi riferisco solo a quello italiano. Poi guardate, quando i numeri ti danno ragione, tu puoi essere quello che vuoi, ma alla fine conta l'ultima riga del bilancio, e l'ultima riga del bilancio per Moncler è stra positiva quest'anno. Comunque, ancora CNH Industrial più 2,90, Anima Holding più 1,80, Azimut più 1,80, Campari più 1,60, Tods più 1%, migliori e peggiori, Sintesi più 8,33, Carrefour più 7,20, Edes più 6,90, e il peggiore la Cassa di risparmio di Genova meno 9,60, e poi Bio2 meno 8,80, Cotel Group meno 6,40. Grazie Andrea Fontana e buon fine settimana a te e a tutti i colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore. Oh, l'ultimo tema è quello più delicato, nel senso che per parafrasare, mi perdonerà Gramsci, insomma, io capisco il pessimismo della ragione, anche in questo caso, e anche il pessimismo, ma credo nell'ottimismo della volontà per quello che riguarda la vicenda popolare di Vicenza. Perché? Perché se uno ragiona su quello che è successo, e mi riferisco alle migliaia di, sono 35.000 gli azionisti della Popolare di Vicenza, si rende conto che è stata adesso la magistratura indaga, è arrivata a ipotizzare anche il reato di associazione per delinquere, per cui figuratevi, ma vedere i tuoi risparmi distrutti del 90%, e qualcuno mi ha scritto: la smetta, uno se vuole non compra le azioni. È un po' diverso, guardi, è un po' diverso come ti vengono vendute, perché se la tua banca da sempre su cui tu hai il mutuo e ti si dice: beh, se vuoi questo mutuo, visto che è ben, è un mutuo molto agevolato per te, compra un po' di azioni, le azioni sono sicure, non è che tutti possiamo immaginare che gli ex vertici della Pop Vicenza stessero nascondendo alla Banca d'Italia, che insomma se ne è accorta in maniera debole all'inizio, mettiamola così, poi è arrivata la BCE, il fatto che molti crediti ancora esigibili fossero sostanzialmente inesigibili. Domani c'è un'assemblea delicatissima, c'è stato, lo dico a Marco Ferrando che è già a Vicenza per seguire l'assemblea. Marco, buonasera, da Sole 24 Ore. Buonasera a voi. Dicevo, c'è stato un appello oggi di Iorio, il neo numero uno, neo amministratore delegato: dovete votare tre sì, sia alla SPA, sia sì alla quotazione in borsa e sì all'aumento di capitale. È ovvio che con l'incavolatura che hanno in questo momento gli azionisti, alcuni in ginocchio, avendo perso risparmi di una vita, la voglia di votare no è fortissima. Io aggiungerei anche perché abbiamo scoperto che gli ex vertici si sono presi, Sorato and Company, indagati, si sono presi quasi 4.800.000 euro di buonuscite, dovute, per carità, però io immagino che, insomma, se questo è un mondo che funziona, quando tu metti in ginocchio una banca e il valore dell'azione si riduce del 90% e prendi pure la buonuscita, che cosa devi fare per non meritartela? Non lo so, ma insomma, perché Iorio chiede che votino sì? Qual è l'alternativa? Marco. Ma l'alternativa, la Banca Centrale Europea l'ha detto e l'ha anche scritto, è essenzialmente un suo intervento, che vuol dire probabilmente un commissariamento, nel senso che la Popolare di Vicenza, e qui le affinità con Veneto Banca sono molte, e da mesi sotto i requisiti minimi patrimoniali fissati appunto da loro, da Francoforte, ha lasciato un po' di mesi di tempo per mettere mano a un piano, l'aumento e anche preparare la quotazione che dovrebbe venire ad aprile. Tutto questo però deve passare per il via libera da parte dei soci, ancora una popolare, quindi sono i 120.000 soci della cooperativa che decidono, e se l'assemblea invece dovesse bloccare, insomma, salta tutto, e quindi BCE ha fatto capire che prenderà in mano la situazione e qui quindi che sfuggirebbe di mano, diciamo. Ma cosa vuol dire? No, spieghiamo bene, perché su questo, quando la Banca Centrale Europea dice prendo io in mano la situazione, cosa fa? Pilota la banca verso il fallimento, in quel caso cosa fa? Siamo ormai in epoca di bail-in, quindi vuol dire risoluzione. Risoluzione vuol dire bail-in, cioè vuol dire una zona grigia in cui può accadere di tutto. La soluzione peggiore è la liquidazione, la migliore può essere lo spezzatino, può essere una banca ponte, così come quella che è stata fatta per Banca Marca e le altre banche, soluzioni in cui i danni per tutti, a partire evidentemente dagli azionisti, ma anche obbligazionisti subordinati e non, e anche correntisti, potrebbero essere ben maggiori di quelli legati evidentemente al piano. Per allora, mettiamola così, Marco, se ho ben capito, per ora ne hanno pagato le conseguenze pesantissime e in maniera anche scorretta, perché quando un titolo non è quotato è inutile dire tanto poi lo vendi, ma se loro non ti trovano un compratore non puoi venderlo. Altra cosa è comprarsi un titolo in borsa, potrai perdere, ma almeno puoi venderlo quando vuoi. In questo momento hanno pagato le conseguenze pesantissime gli azionisti. Se non passa questo piano c'è il rischio forte, molto forte, che ne paghino le conseguenze anche obbligazionisti e correntisti. Questo va detto, però, perché non, dobbiamo fare un'informazione non per spaventare, ma molto precisa, Marco, su questo. Assolutamente. La BCE, se interviene, come dicevo prima, può aprire una procedura di risoluzione e lo scenario che si apre non è molto diverso da quello che si sarebbe potuto aprire per Banca Marche e le altre. Quindi il certo per l'incerto, diciamo così, un sacrificio certo è già peraltro avvenuto, perché le azioni un anno fa valevano 60 euro, oggi valgono 6 euro, probabilmente varranno ancora di meno quando la banca si quoterà. Quello è il sacrificio certo. Il sacrificio incerto e potenzialmente molto più allargato è quello legato all'intervento della BCE. Allora, attenzione, poi ognuno voti come cavolo vuole, ci mancherebbe, però lo dico perché uno mi scrive, ma guardi, da azionista io ho già perso tutto, ho perso già il 90%, chi se ne frega che commissari non la banca. Ho capito, deve spiegarlo poi a chi ha obbligazioni, a chi è correntista e anche ai dipendenti della banca stessa. Comunque lei non rivedrebbe il 90% che ha perso, mettiamola così. Se poi non vuol dire tanto peggio, tanto meglio, per carità, è un ragionamento. Però poi domani vediamo, Marco, perché tu sarai anche in collegamento con i nostri GR24, se almeno verrà chiesto a Iorio, che non ha nessuna responsabilità, però insomma, come mai sono usciti 4.800.000 euro di buonuscite, di liquidazioni per Sorato e il vecchio consiglio di amministrazione? Tu l'hai capito questo in una battuta flash? Ho capito che erano previste, ma di fronte a un crack del genere, Marco? Questi sono purtroppo automatismi che scattano, la banca si difende dicendo che chiederà quei soldi indietro, però se vediamo come sono andati altri film, quei soldi non sono mai tornati. Cioè, gli automatismi scattano sempre però a vantaggio di vertici che distruggono le banche, cioè, mai a svantaggio. Vabbè. Dai, non voglio rovinare definitivamente venerdì agli ascoltatori. Grazie Marco Ferrando, domani in collegamento con noi di nuovo per raccontarci l'assemblea della Popolare di Vicenza. Un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche questa settimana in redazione e in studio. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.